I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Deborah Rosciani. Una settimana cautamente serena, quella che abbiamo visto settimana scorsa sui mercati finanziari, con rialzi generalizzati fra gli indici mondiali grazie a molti elementi. Intanto il prezzo del petrolio, che ha rivisto livelli che non vedeva da mesi, fra i 43 e i 44 dollari al barile, in attesa del vertice di ieri di Doha tra i paesi aderenti al cartello OPEC e non aderenti. Cosa si è deciso? In pratica non si è deciso nulla, tutto rinviato sui tetti produttivi a giugno, quindi un vertice attesissimo ma fallito, che stamattina sta già facendo riprecipitare i prezzi. Il WTI americano è a 38 dollari e vanno male le piazze asiatiche, a cominciare da Tokyo, che arretra del 3%. Per quello che riguarda Piazza Affari, neanche a dirlo, è stata l'ennesima settimana quasi tutta concentrata sul settore bancario. Il governo ha varato il fondo di stabilizzazione bancaria Atlante, che avrà una dote finanziaria di circa 6 miliardi e servirà a sostenere le ricapitalizzazioni delle banche italiane, quelle che devono fare aumenti di capitale, e favorire la cessione delle sofferenze del sistema. Peraltro nel weekend Atlante ha anche avuto il via libera da parte del G20 di Washington. Lo finanziano le stesse banche italiane, le maggiori quote le metteranno Unicredit e Intesa San Paolo, e tra oggi e domani, tra l'altro, si dovrà conoscere il prezzo dell'imminente quotazione in borsa della Popolare di Vicenza, che contestualmente varerà l'aumento di capitale e sarà la prima prova a cui sarà chiamata a cimentarsi il fondo di stabilizzazione. Notizia dal mondo dei titoli di Stato: la settimana scorsa il Tesoro ha messo sul mercato diverse scadenze. Da segnalare che il bot annuale ha registrato un nuovo minimo storico del rendimento, che è sempre più negativo, meno 0,081%, mentre è ritornato in positivo il rendimento del titolo a 3 anni. I temi da monitorare nei prossimi giorni: ha ripreso a pieno ritmo la stagione delle trimestrali americane. Questa settimana l'appuntamento con i conti del primo trimestre è con Morgan Stanley, Johnson & Johnson, Goldman Sachs, Intel, Yahoo, Coca-Cola, Microsoft, Google, McDonald's. Giovedì a Francoforte c'è il nuovo meeting di politica monetaria della Banca Centrale Europea, con la successiva conferenza stampa di Mario Draghi. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore. Con Salvatore Padula. Oggi il Parlamento ha avviato una fase di consultazione sul DEF, che è il documento di economia e finanza, cioè lo strumento che serve per aggiornare la programmazione economica in vista della manovra annuale di bilancio, documento che, come prevede la legge, è stato inviato nei giorni scorsi anche alla Commissione europea. Ad avviare questo ciclo di audizioni davanti alle commissioni bilancio di Camera e Senato è stata oggi la Banca d'Italia, con una valutazione che individua uno scenario programmatico compatibile rispetto all'attuale situazione congiunturale. Ricordiamo che nel DEF il governo ha tagliato le previsioni di crescita dall'1,6 all'1,2% del PIL, anche se per la banca centrale non sono del tutto esclusi i rischi di un'evoluzione meno favorevole del quadro economico. Piena condivisione sull'obiettivo della riduzione del debito pubblico, ma qualche dubbio è stato espresso sui margini non ampi per poterlo realmente realizzare. Valutazione positiva anche sulle prospettive di riduzione della pressione fiscale, che nel 2016 scende di qualche decimale ma comunque rimane su livelli altissimi, intorno al 43%, e in più, fa notare Banca Italia, resta superiore per circa 2,5 punti percentuali rispetto alla media del decennio precedente la crisi. In questo senso non è un caso che dalla Banca d'Italia arrivi una sollecitazione importante al governo per valutare riduzioni permanenti del cuneo fiscale, con l'obiettivo di sostenere la crescita e l'occupazione. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS, e in video su radio24.it e rds.it.